Sono pronto, sono pronto. Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. Rachele Bruni è potenzialmente vicinissima al podio, è sempre più vicina all'impresa, si sgomita per l'argento, vediamo l'arrivo, chi tocca per prima? Müller Bruni, dice la grafica, è bronzo Italia. Una seconda volta il bronzo di Rachele Bruni si è trasformato in argento perché è stata squalificata la francese Aurélie Müller. Rachele Bruni è argento olimpico. La francese mi ha buttato sotto e io non ho potuto toccare il tabellone all'arrivo subito, quindi giustamente penso che insomma tra un argento e un bronzo c'è una bella differenza, quindi sono data della decisione che hanno preso i giudici. Sono un po' una testa calda, ho dei momenti in cui magari sono stanca e come penso tutti gli atleti, dei momenti in cui c'è da lavorare, c'è periodi dove carichi tanto di lavoro, quindi sei stanca ed è difficile stare sempre con la testa lì. Ecco la numero 22, ovviamente è il computo delle medaglie italiane alle Olimpiadi. Oggi pomeriggio italiano naturalmente, è arrivata quella di bronzo che poi si è dipinta di argento di Rachele Bruni nel fondo di nuoto. Ciao Giovanni Capuano. Sì, e che ci ha consentito, di scavalcare la Francia nel medagliere. Siamo in questo momento sesti ed è incredibile perché abbiamo scavallato ottimo. Metà Olimpiade. Non sarà così la seconda metà, lo diciamo, ma fin qui davvero è andata bene. Quel signore lì. La Francia era davanti a noi. La Francia era davanti a noi per numero di medaglie complessive. Poi Aurélie Müller ha fatto tutto lei, ha fatto una scorrettezza da moviolone, ha preso la squalifica, non solo ha perso l'argento che è andato alla nostra Rachele Bruni, ma ha perso tutto. Sì, poi... perché non vanno per il leggero i giudici, eh? No, non è che ti danno il drive-thru 5 secondi. No. Non ti danno il drive-thru, poi possiamo essere maliziosi visto che siamo italiani e... Pensare che, essendoci come quarto una brasiliana, magari è venuta una botta più facile. No, ma io non credo, sinceramente, per quello che abbiamo visto noi in televisione, la scorrettezza era stata abbastanza evidente, proprio negli ultimi centimetri di questa 10 chilometri, con l'italiana che sembrava essere pronta a toccare questa piastra che è sollevata, per chi non ha visto la gara, rispetto alla superficie all'acqua. Le due erano vicinissime, le due si stavano menando in realtà da almeno 200-300 metri, però è stato chiaro insomma che c'era una trattenuta, ma ci dirà tutto il biscardone. Sì, no. Era calcio di rigore, come direbbe Cesari. Dario Ricci, nostro inviato alle Olimpiadi. Ciao ragazzi, ciao. Sì, era rigore. Era rigore. Quindi non ci sono dubbi, ma è stato fatto ricorso? No, in realtà non è stato fatto ricorso, perché hanno fatto ricorso i francesi, ma certo, è stato respinto, ma la nostra delegazione non ha presentato ricorso, sono stati i giudici che autonomamente, rivedendo il filmato, hanno preso questa decisione. Poi là si può discutere solo sul fatto che questo sport prevede la necessità di toccare la piastra. Tutto sommato si potrebbe mettere una linea del traguardo, nessuno si mena e chi passa per primo vince. Però poi sarebbe linea virtuale, poi tra l'altro le due dopo 10 km erano ancora attaccate. Comunque 800 24 00 24, io invito gli ascoltatori Ferragosto, li invito anche via WhatsApp 349 238 6666. Oggi raccontavo che Giovanni Capuano si è fatto la grigliata di Ferragosto a un noto ristorante scozzese qui sotto la radio in via Monterosa. giusto per farci così, per farci un dispetto, raccontateci anche, se avete voglia, via WhatsApp, vocale 349-238-6666, la vostra grigliata di Ferragosto. Oppure diteci a quale, beh, ieri è stata la giornata dell'amore, no? Con questa dichiarazione d'amore in cinese, meravigliosa, nel nuoto. Fate una dichiarazione d'amore a un atleta olimpico che volete voi. Oggi è il grande tema, eh? Oggi è il grande tema perché abbiamo dei precedenti. Sì, abbiamo dei precedenti. E quindi come andrà a finire tra Qin Chai e Z1X2? Secondo i precedenti, 1X2. E poi vi raccontiamo anche perché. 1X2. 1X2. Per i romantici 1, per i cinici 2. Per i cinici 2, il pareggione, vabbè, il pareggione poi ne discutiamo. Dario Ricci, raccontaci invece questa gara in cui abbiamo preso l'argento con Rachele Bruni. Beh, è stata una bellissima battaglia, come sapete bene, il fondo è guerra in alto mare, no? Perché tra gomitate, botte e la necessità anche di, nel tempo libero, di nuotarli questi 10 chilometri, è stata comunque una gara avvincente, con la Bruni che è sempre stata nelle primissime posizioni, del resto era una delle favorite di questa 10 chilometri, condizioni meteo perfette, l'ha detta lei stessa nel dopogara, l'acqua era buona, sapete che ci sono nuotatori che detestano anche acque troppo calde e invece Copacabana da questo punto di vista è stato un campo di gara perfetto, anche come location chiaramente, perché ci sono tutti i carioca sulla spiaggia come d'abitudine. E poi ecco la volatona Rowenthal, l'olandese si è avvantaggiata nella parte finale, ha preso questa manciata di secondi, questi circa 16 secondi di vantaggio, quindi è arrivato in solitaria, dall'altra allenata da quel Philippe Lucas che conosciamo bene come ex allenatore della Manadou e anche della Divina Federica Pellegrini. E poi c'è stata questa volata con questa rista che fortunatamente ci ha regalato uno splendido argento, e al Brasile, come ricordavate, questo bronzo inatteso, tant'è che poi la torsiera è impazzita lì in spiaggia. Sì, immagino. Intanto sto vedendo le immagini del ciclismo su pista, attenzione agli Viviani, perché da lì potrebbe arrivare qualcos'altro. Sì, la situazione è questa, la gara è quella dell'Omnium, si sono corse 4 prove su 6 ed Elia Viviani in questo momento è primo con 140 punti, secondo è un francese, Thomas Boudat 126 insieme a Mark Cavendish, vecchia conoscenza, britannico, anche lui 126 punti, il quarto che è un norvegese, Lasse Norman Hasse, è a quota 118 punti, quindi è discretamente staccato dal nostro Elia Viviani. Mancano 2 prove. Elia Viviani è stato bravissimo nella corsa cronometro che c'è stata questo pomeriggio italiano, questa mattina nell'orario di Rio, si è classificato terzo, 1 minuto 2 secondi e 338 millesimi. Alle 21 ora italiana c'è il giro lanciato, alle 22:23 la corsa a punti che chiuderà tutto. E credo tradizionalmente Dario sia anche in grado di ribaltare la classifica. Proprio così, Elia lo sa bene perché è entrato da Papa a Londra nel velodromo, ne uscì invece con un amaro quarto posto, se non ricordo male, comunque fuori dal podio. La corsa a punti è decisiva, però Viviani quest'anno ha pedalato ogni chilometro in funzione dell'appuntamento olimpico, quindi veramente arrivato con altra preparazione, con altro piglio e con la voglia davvero di portarla a casa questa medaglia. Non a caso stiamo andando proprio lì al velodromo, è bravo. No, ma anche perché insomma, diciamo anche questo, c'è qualcuno che mi rimprovera sul pensar male per la brasiliana che era quarta, la francese squalificata, ma è stata una squalifica giusta, tanto che la Francia non ha protestato più di tanto, perdonatemi se penso male, ma è un pensiero che ho. C'è chi mi accusa, è stato va bene. Un bel aiutino. Beh, è stato un bel aiutino perché insomma, no, insomma un bronzo che diventa un bronzo che diventa argento è sempre una cosa importante. Dario, vai al velodromo, dicevo che attendiamo, cioè, inconsciamente forse, una sorta di risarcimento anche nel ciclismo, non so se avete la stessa sensazione. Abbiamo preso un bronzo al femminile, però quella corsa di Nibali c'è ancora rimasta sul gozzo, eh? Quella caduta di Nibali c'è ancora rimasta qua. Hai proprio ragione Carlo, quindi diamo di corsa al velodromo e poi lì vicino fortunatamente c'è anche la piscina, perché poi c'è il 7 rosa impegnato contro la Cina nei quarti, sfida non impossibile contro le cinesi, che tra l'altro contro con le quali le azzurre hanno tra l'altro svolto in stagione diversi allenamenti in comune, quindi sono due avversari che si conoscono benissimo. Dovessimo passare questo turno, siamo tra le quattro in corsa per le medaglie, nella parte diciamo un po' più morbida del tabellone, se così si può dire, perché gli Stati Uniti sarebbero dall'altra parte, quindi davvero appuntamento fondamentale per il Sette Rosa. Grazie Dario, dopo ci sentiamo. Grazie più tardi, a voi, ci sentiamo più tardi. 800 24 00 24, numero verde per le vostre telefonate. Giovanni, sentiamo il traffico. Sentiamo il traffico. Brasile, poi, che è trentesimo nel medagliere. Quella di oggi è stata la settima medaglia, la quarta di bronzo. Ha vinto solo un oro fin qui il Brasile. Non benissimo. Non poi benissimo. Vi do anche tutto l'aggiornamento sulle batterie di atletica che si sono corse oggi. Questa notte c'è la finale dei 400 con la nostra Libagna Grenot, che è entrata con il sesto tempo. Oggi non è andata benissimo. Poi abbiamo fatto anche oggi un giochino divertente, no? Phelps, che insieme ha preso le stesse medaglie, oggi ricordarli. Phelps è il 38esimo stato, nel medagliere all-time delle Olimpiadi. Il 38esimo stato, la Repubblica di Phelps. La Repubblica di Phelps, Repubblica Democratica di Michael Phelps. No, democratica non credo, Repubblica... perché è uno e quindi dai, ci decide fermiamo da solo. Ci fermiamo per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. Well, now I get the energy. Set. Get the speed. At the gun, Gatlin away, and so is Blake, Vico, and here comes Bolt. But Gatlin has a big lead. Can Bolt catch him? Here he is, still invincible. Usain Bolt. Faster than lightning. When I get the top speed, I burn on the afterburners. Listen to the crowd getting loud. That's when they get up. It'll be my last Olympics. I won't retire at the same time, but this will be my last Olympics. I've proven to the world over and over again that I'm the best, and that's what I came here to do. So I'm happy with myself. It's now all I have to do now is go home and execute. I need to go faster. Questa non è male, del DJ Steve Porter con Usain Bolt. Quella che sentite è la voce di Usain Bolt in questo Faster Than Lightning. Mica male, No, mica male soprattutto per uno che insomma è stato il primo uomo a conquistare per tre volte di fila i 100 metri nelle gare olimpiche. Possiamo discutere sul se sia più immenso Usain Bolt, se sia più immenso Michael Phelps. Magari anche alla fine io credo che basti il dato che abbiamo nominato prima per dire che è più immenso degli immensi. Numero? Michael Phelps 38 38esima nazione Michael Phelps nel medagliere all time delle Olimpiadi. Ti posso dare due notizie velocissime. Allora, qualificazione del salto triplo maschile, Fabrizio Donato 16:54 fuori, doveva fare 16:61, è stato sfortunato, ha fatto 16:54 al primo salto, poi due nulli, ma soprattutto il secondo nullo per un solo centimetro avrebbe probabilmente fatto la misura che gli serviva. E poi batterie 200 femminili, Gloria Hooper fuori 23:05, fuori con il 33esimo tempo. 3000 siepi maschili fuori, tutti e due i nostri rappresentanti, Abdullah Bamoussa e Yuri Floriani. E noi abbiamo in linea il nostro dioscuro olimpico Leo Turrini. Ciao Leo, come andiamo? Soprattutto bentornato maestro Genta. Pensavo ti fossi iscritto ai campionati del mondo di nascondino. E lascia stare per tre giorni ti sei fatto di nebbia, complimenti. Eri con Bobo Vieri a giocare a football. Come fai a saperlo? Bravo. Ma perché voi siete così prevedibili. Perché? Devo dire, siete prevedibili come Usain Bolt. Sì. Allora io ieri sera ero allo stadio del Botafogo, che hanno ribattezzato Stadio Olimpico. Una sensazione fantastica, perché onestamente l'avete ricordato, mai un bipede aveva vinto tre volte di seguito i 100 metri all'Olimpiade, quindi uno che era lì si rendeva conto che sotto gli occhi si stava facendo la storia, la leggenda, capito? Sì, no, no, certo, sì. è così, ma è quello che stavo pensando anch'io. Questa atmosfera, ragazzi, allora Bonte è uno che è amatissimo ovunque, perché lo sapete da quando ha cominciato, quando è diventato celebre a Pechino, ha questo modo un po' da cartone animato, da atteggiarsi, no? Un po' sghembo, sembra Roger Rabbit, no? Ci vogliono bene tutti, però qui in Brasile, se è possibile, ancora di più. Avresti dovuto essere allo stadio, erano lì tutti per lui. Una cosa che io nell'atletica leggera veramente non ho mai visto. Ma tanti hanno detto. Ma difatti se ne sono andati subito dopo. Sì, se ne sono andati subito dopo. Però ti ricordo l'altro giorno. Aspetta, Leo, abbiamo anche Giorgio, nostro amico Giorgio Rondelli, che è a Rio. Che è a Rio e sta commentando per la Rai le gare di atletica. Ciao Giorgio. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi. Buon pomeriggio. No, come ha detto l'altro giorno a questi microfoni Gimo Tamberi, quando entra nello stadio Usain Bolt accende la luce, cioè provi qualcosa di emotivamente diverso rispetto ad ogni altro atleta. Anche tu? Ma guarda, io ti dico questo, ieri sera io che sono un vecchio frequentatore, la luce non me l'ha accesa Usain Bolt. Scusatemi, ma il sudafricano Van den Niekerk, correre in 43.03 è fantascienza, cancellare dall'albo dei primati Michael Johnson con passaggi sui cibi è una retta finale veramente, veramente incredibile. Lo stesso Usain Bolt è salito per complimentarsi con lui, tra l'altro i due si erano allenati assieme per un certo periodo in Sudafrica, e quindi si preannuncia una sfida molto intrigante sui 200 metri tra questi due fuori classe. Certamente Bolt nella storia, era anche un Bolt a cui è bastata un'acceleratina in progressione dai 50 agli 80 per andare a riprendere un Justin Gatlin che non era certo quello migliore, e vincere con 9.81 che per lui è assoluta ordinaria amministrazione. Certo, i tre titoli olimpici consecutivi non sono ordinaria amministrazione, ma nella leggenda c'era già Usain. Posso dirvi una cosa? Noi profani che qui in Italia abbiamo messo la sveglia alle 3 per alzarci a vedere la finale dei 100 metri, siamo rimasti un po' delusi. Io l'ho usato oggi alle 2 l'aggettivo normale. È stata una gara normale, siamo tornati a letto alle 4 che non c'era scattata la scintilla, come invece era successo altre volte seguendo Usain Bolt. Forse è anche il segno dei tempi che passano. No, sì, un po' di tempi che passano, un po' della condizione di Usain Bolt, che non può essere quello stratosferico del 2008 e 2009 quando macinava il record del mondo come fossero noccioline, un po' anche gli avversari, il livello degli avversari è un po' sceso, e lui ha sempre questa capacità di fare i 100 metri in 40, 41 passi, con una falcata di 2,60, 2,65. Finché mantiene una condizione decente è sempre il numero uno, perché il margine tra lui e gli altri è questo. E comunque effettivamente la grande luce non si è accesa, anche perché lo stadio era stato veramente, te lo posso dire, annichilito dalla prestazione di quel 43.03. Per chi se ne intende, vuol dire fare 10 volte 4 volte i 100 metri in 10.76, fantascienza. Sì. Leo, anche tu sei rimasto abbagliato più dal Sudafrica che non dalla Giamaica. Il professor Rondelli è un grande, devo dire. Poi è un purista dell'atletica, ha fatto molto bene a segnalare questo giro di pista del sudafricano. No, io non sono rimasto abbagliato, io sono rimasto sbalordito, perché poi avevo guardato i tempi di questo ragazzo, sia il personal best che il season best, una cosa del genere. 43.03 in finale olimpica, demolendo il record di Johnson che durava da 17 anni. Tra l'altro, pensate un po', corsi e ricorsi, Johnson portò via prima dei giochi di Atlanta a Pietro Mennea il record sui 200 metri ed erano appunto passati 17 anni, dal 79 al 96. Qui siamo dal 99 al 2006, quindi insomma c'è anche quasi una sottolineatura statistica. Però devo dirvi una cosa, che il ragazzo sudafricano probabilmente il nuovo crack dell'atletica, adesso lo vedremo anche sui 200 metri, non lo so, ma non sono d'accordo con quello che diceva prima Giovanni, non è stata una gara normale. se un uomo vince tre volte di seguito i 100 metri alle Olimpiadi, e non è mai accaduto dal 1896 in poi, siamo in presenza di qualcosa di unico, cioè bisogna alzarsi in piedi e togliersi il cappello. Questo lo so anch'io, aspetta, lo so anch'io, che il Bolt che ho visto a Pechino e soprattutto a Berlino nel 2009 non tornerà più. Sono passati anche quasi dieci anni, però voglio dire, questo arriva qui per la terza volta di seguito, però, e Leo, vince i 100 metri. Però Leo, parlavamo ieri con Andrea Bongiovanni, che diceva, guardate che non ha più fatto sotto 9,80 e per vincere l'oro serve andare più o meno sotto... sotto quel tempo lì, in realtà non è servito. Forse anche quelli che hanno intorno, forse avesse avuto intorno un avversario da 9,80, magari era capace di regalarci il 9,78. Ma ha ragione Giorgio Rondelli, il cast di supporto non era all'altezza. Guardate che Gatlin ha perso la grande occasione l'anno scorso. L'anno scorso era più forte di in quel momento ai mondiali di Bolt. Bolt, solo che Bolt ha una personalità tale. L'altro poi soffre anche queste situazioni, perché uno entra e sembra che entri, che ti devo dire, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, lo stadio che viene giù. L'altro entra e va sui blocchi di partenza fischiato, sempre per i suoi grossi peccati di doping. E quindi ha già l'animo un po' del pulcino nero, diciamo dello sconfitto in partenza, pur avendo grandi mezzi atletici. Se mi permettete una cosa per puristi, di Van Niekerk, che è passato ai 200 in 20,70 contro i 21,12 di Michael Johnson, e poi è riuscito ancora 31,20, che non è distante dal record del mondo dei 300, e poi soprattutto negli ultimi 40 metri io non ho mai visto nessuno finire così, quando l'acido lattico gli dovrebbe tagliare completamente le gambe. Sì. Giorgio, per chiudere, 200 metri che ci aspettano. Sarà ancora sfida. Bolt, perché Bolt aveva detto ma mi preoccupano i 100 metri, poi non so se lo dicevo anche oggi, se c'è o ci fa, no? Perché sappiamo come Bolt, mi preoccupano i 100, i 100 li ha portati a casa. Beh sì, anche perché lui, per la sua anche complessione fisica, non è mai, se guardate il filmato, non è mai un fulmine di guerra uscire dai blocchi nei primi 30, 40, 50 metri. È chiaro che se lì è a stretto contatto con gli avversari, appena dietro o davanti, è chiaro che i 200 metri è una prateria doppia, quindi non dovrebbe avere problemi. Se ci li farà De Niekker, che sarà interessante, perché qua sul rettilineo d'arrivo si troverà un atleta a livello di Michael Johnson, che comunque detiene il miglior parziale sui 100 metri finali di un 200 metri, quando fece 19,32 ad Atlanta. Quindi dovrebbe essere la sfida veramente entusiasmante. Grazie Giorgio, ci sentiamo grazie presto. A voi. Grazie Giorgio Rondelli. Leo Turrini, rispondiamo insieme a Nicola. Parliamo insieme con Nicola da Siena. Nicola, buonasera. Sì, buonasera e grazie per la conversazione. Ma grazie a lei, dica. Niente, io volevo parlare della divina normalità che abbiamo visto ieri sera, grazie a Tania, che ci ha fatto emozionare. Bravo. E forse avrebbe meritato lei la bandiera per lo spirito e per quello che anche rappresenta, più che la Pellegrini, che stimo, però che non è, diciamo, un atleta olimpico, secondo me, ecco, nel senso, è molto più, fa parte molto più dello sport spettacolo che assomiglia al calcio. Nicola, però non confondiamo le cose, se parliamo di immagine mediatica è un conto, se parliamo di atleta olimpico, se parliamo di titoli, di medaglie, di grandezza, comunque Federica Pellegrini è un gigante della nostra storia sportiva, quindi non starei a discutere. Poi Tania Cagnotto, ci alziamo in piedi sull'attenti, questo è evidente, però non starei a discutere la scelta del nostro portabandiera, perché va bene, no Leo? Cioè, è chiaro che è una rock star Federica Pellegrini, però è anche una grandissima nuotatrice. No, beh, sai, secondo me poi quando si parla di fenomeni mediatici si tende a sottovalutare l'aspetto strettamente agonistico. Federica ha fatto 4 finali olimpiche dei 200 stile libero, 4, di cosa stiamo parlando? Una. È salita 2 volte sul podio, tra l'altro... Tieni presente una cosa, quando lo dico tutto il massimo rispetto per Tania, che è una mia amica e che sarebbe stata anche lei una degnissima portabandiera, Il quarto posto di Federica nei 200 stile libero, che è stato da tutti noi legittimamente accolto con delusione, perché una medaglia ce l'aspettavamo, è il miglior risultato del nuoto italiano qui a Rio, una volta tolti Paltrinieri e Detti. Sì. Quindi insomma, vediamo anche di mettere le cose in prospettiva. Parliamo di una campionessa che ha 28 anni e che ancora è lì, insomma, non è riuscita a salire sul podio, però è stata una protagonista. Io, ne abbiamo già parlato, certe critiche, non dell'amico che era al telefono adesso, ma certe, ripeto, tendenze alla sottovalutazione, non le capisco. No, ma sono d'accordo con te fin dalla prima ora, Leo Torrini, sono d'accordo con te fin dalla prima ora. Sei riposato, hai fatto 3 giorni di football, sì, con Bobo Vieri, con Bobo Vieri, cioè, spagnole, sì, sì, bravo. Oggi è disponibile a dare ragione a tutti, No, ma non è questione, ma io è dalla prima ora. Leo, è dalla prima ora che difendo l'Olimpiade di Federica Pellegrini, e tu lo sai perché parliamo tutti i giorni. È dalla prima ora non condivido le critiche, ma forse anche forse neanche la delusione di questo quarto posto, che è comunque un bel risultato sportivo. Come sempre, sono d'accordo con te, anche perché dopo l'oro nel doppio del tennis ho incrociato Nadal, no? E mi ha detto, adesso finisco il singolare che mi ha finito bene, poi torno alla mia isola di Maiorca, e gli ho detto, vai che troverai gente lì, sì, perché sì, non c'è più il studio. No, siamo già d'accordo. Io e Rafa siamo già... Per tutti i convocati alle Olimpiadi, sì, va bene. Ma va bene, ci troviamo comunque, siamo già d'accordo, ci troviamo a Formentera, nei prossimi giorni, con Bobo Vieri anche. Allora, ci fermiamo un istante, ma poco, torniamo subito, 800 24 00 24. È il numero verde e aspetta anche la vostra voce via WhatsApp, 349-238-6666. Fate una dichiarazione d'amore, dai. A qualche atleta italiano. Come quella cinese. Ma meraviglioso, dopo ne parliamo. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati alle Olimpiadi. Sulla luna! Spettacolo! Siamo nelle mani dei giudici. Fuori questi 9, fuori questi 9 e mezzo! No! Medaglia! Medaglia di bronzo! Seconda medaglia! Bravi! Per Tania Cagnotto, adesso sì, sei nella storia, Tania! L'abbraccio di papà, l'abbraccio di Ernesto Vincenti, il fisioterapista! È la chiusura di una favola, questo, la conclusione di una carriera inimitabile. È arrivato anche il bronzo individuale dopo l'argento nel sincro. Ma che bello! Sì, guarda, oggi è proprio una giornata incredibile. Io non pensavo addirittura di tornare a casa con 2 medaglie. Ero già così contenta dopo il sincro. Oggi volevo veramente solo godermela, perché sapevo che era la mia ultima gara della mia carriera e mi sono goduta veramente tuffo per tuffo, ho saltato con il cuore, ho saltato per me. Senza più ansia e stress da gara, e questo è quello che non mi mancherà. Poi mi mancheranno tante altre cose, ma non potevo dare di più, ho dato veramente il 100% in questo sport, in questa vita fino a qua, e non ho una briciola in più da dare veramente. No, io confesso di avere ancora i brividi. Ma infatti, da quell'ultimo tuffo. Quell'ultimo tuffo, questa è una storia che anche chi capisce poco ha capito che era successo qualcosa di speciale. Ma infatti, io ti dico, le medaglie a cui sono più affezionato in questa spedizione sono le due dei tuffi, quella di Cagnotto dalla Pè nel sincro e quella che ha conquistato ieri con quell'ultimo tuffo della sua storia di grandissima tuffatrice. Leotturini, abbiamo in linea Nicola Marconi, vuoi salutarlo tu? Sì, ciao Nicola, avevamo parlato insieme l'altro giorno e mi sembrava che lui ci credesse anche nella medaglia dell'individuale da parte di Cagni. Buonasera a tutti. Ciao, io ci credevo, e come, perché comunque, lo ripeto, conosco Tania, conosco le avversarie. So qual è l'emozione che una canadese come Jennifer Abel, che comunque è molto giovane, può provare, e invece cosa prova Tania, soprattutto dopo già la medaglia nel singolo con Francesca. Quindi ci speravo tanto, ci credevo tanto. No, ma poi è da leggenda il fatto che tutti sapessimo, lei per prima, che quello sarebbe stato il suo ultimo tuffo, l'ultimo tuffo della sua carriera, e questo aggiunge qualcosa di più e di diverso, no? Anche per un cantore come Leotturini. Ma io penso che Tania ha detto giustamente che non ne vuole più perché ha realizzato i suoi sogni e ha ragione, ma io mi sto affezionando all'idea per lei come Campriani, no? Che facciano come Bolt, dicano basta, mi ritiro, ho avuto tutto, è fatta, dico il Bolt dopo l'Olimpiade di Pechino, quella di Londra, e poi lasciateci sperare che ritornino, perché comunque noi stiamo vivendo un'Olimpiade italiana che è zeppa di personaggi fantastici, al di là del metallo della medaglia che mettono al collo, no? Hai detto bene, questa storia di Tania, penso, l'abbiamo vissuta tutti con una partecipazione speciale, perché ci ricordavamo quando era stata beffata per frazioni di punto, perché l'abbiamo vista lanciarsi in acque anche più pulite di quelle della piscina di Rio, sempre con una passione, una dedizione, e un po' dispiace, sai, dopo, quando ti senti dire giustamente, legittimamente, adesso però, insomma, ma devo, guarda, pensare, ma alla vita. Sai che non so se stavolta sono d'accordo con te, a me piace. Scusami Leo, io credo che a 31 anni, quanti ne ha Tania Cagnotto, sia anche legittimo. Campriani è un bambino per la specialità che fa. E quindi io credo sia una forzatura pensare che possa chiuderla qui. Giovanni, avete ragione, fa benissimo chiuderla qui, ma io sono un inguaribile romantico, no, certo. Io vorrei che non smettessero mai, capito? Perché che durasse un mese, però quando tu ti imbatti in qualcuno che ti scatena dentro un'emozione, pensi che bello, no? Se durasse per sempre. So che sto dicendo delle frasi da Cioccolatini Perugina, ma voi siete in ferie, Ferragosto, eccetera. Io sono qui due settimane che lavoro come un pazzo, quindi abbiate comprensione. Ti distruggono a suon di medaglie. Io ti capisco, hai tutta la nostra solidarietà. Nicola Marconi, secondo te fa bene Tania con due medaglie olimpiche al collo a dire: bene, questa è la mia ultima volta? Secondo me sì, a me piace, nonostante Leotturini vorrebbe che le storie d'amore non finissero mai, ha ragione, però... Allora, io da una parte dico brava Tania, fai bene, perché so quanto sangue, quanto sudore, quante lacrime, perché io l'ho fatto prima di lei, purtroppo sì. Non ho avuto gli stessi risultati olimpici, però ho sofferto tanto per quel quarto posto ai mondiali, ho tenuto duro, ci ho provato ancora... E poi a un certo punto, dopo l'ultima soddisfazione, ho detto ok, basta così, perché sono felice di quello che ho avuto, sì, di quello che ho dato, però adesso sono passato dall'altra parte della barricata, che sono un allenatore, che seguo i ragazzi, io vorrei che Tania non smettesse mai, perché comunque anche solo che restasse in piscina a fare quella garetta, quelle due garette all'anno, perché è un simbolo, è un esempio, è un motivo d'orgoglio, i ragazzi, i bambini la guardano e sono ammirati, vogliono fare come lei, è un personaggio, è una bandiera, per i tuffi italiani. Ma non si rischia di macchiare, cioè, ma adesso sto usando una parola grossa e sto dicendo una forzatura, di macchiare in questo modo, rimanendo quello che hai fatto? No, perché quello che ha fatto è indelebile, è santo quello che ha fatto Tania, e quindi è impossibile macchiarlo. Io invece una potrebbe macchiare con un episodio brutto. No, doping, no, ma non sto dicendo un episodio brutto. Non è quello, quindi è impossibile. No, ma sei al top, sei nell'Olimpo e dall'Olimpo a me piace un atleta che dice mi fermo qui. Questo è il senso, no, di ciò che sto dicendo. Io invece ho una curiosità che è questa. Anche dopo averla sentita ieri dire che finalmente si è tuffata libera di testa perché aveva preso quell'argento e quella medaglia olimpica. Se quella medaglia olimpica fosse arrivata un po' prima, oggi forse staremmo celebrando una campionessa ancora più grande, ma anche banalmente a livello numerico. È così, Nicola? Beh, se a Londra fosse andata diversamente, forse oggi Tania non sarebbe qui, perché si sarebbe ritirata dopo Londra. Dici? Anche Francesca. Beh, la mezza idea c'era già, perché già al tempo Tania era stanca. E poi ha praticamente mollato per un anno e mezzo, che non l'abbiamo praticamente vista per un anno e mezzo in piscina, ha fatto soltanto quelle due gare che doveva fare, le gare internazionali, dove ha preso comunque le medaglie, gli europei e mondiali, però ha preso un bel periodo di stacco totale, perché era proprio stanca e la massata di Londra l'abbiamo sentita chiaro, tutti, e lei di chiaro, più di tutti. Chiaro. Grazie Nicola, grazie davvero. Grazie a grazie voi. Grazie Nicola Marconi. Allora, Leo Turrini, per una volta nella vita non ci siamo trovati d'accordo su un punto, sono molto felice di questo. Dimmi invece la tua, poi ti lascio andare a scrivere, perché sarai trafelato anche oggi una medaglia d'argento e no, magari non è finita, perché Elia Viviani stasera nella serata italiana potrebbe fare qualcosa di importante, tu lo conosci bene. Dimmi la tua su quella dichiarazione d'amore del cinese, dai. Insomma, quando tu sei alle Olimpiadi capisci che crollano i freni inibitori, hai capito? Crollano i freni inibitori. Ma sì, questo cinese tuffatore, anche lui, no? Che aspetta la fine della gara e poi si avventa sull'amato bene e chiede di potersi unire per sempre, io mi auguro siano felici, contenti, eccetera, eccetera, in mondo visione. Sai cosa diceva Andy Warhol, che non era un quattrocentista americano, anche se il professor Rondelli magari l'ha visto correre? Bene, il guru della pop art dice una volta: tutti nella vita hanno diritto al loro quarto d'ora di celebrità. Ora, bisogna metterla così. Il tuffatore cinese, che è bravo anche lui, beh, per carità. Il tuffatore cinese non è uno passato di per caso. No, è un campione. È come se Paltrinieri avesse aspettato la Pellegrini per chiederla sposa. Sì. Per farlo capire a chi... Però, aspetta un attimo, voglio dirti questo. È un campione il tuffatore cinese, ma a livello planetario, no? Con questo gesto, adesso lo conoscono tutti. Magari non ne sanno pronunciare il nome, ma tutti ricorderanno di questa Olimpiade di Rio la proposta di matrimonio del tuffatore alla tuffatrice subito dopo la premiazione di lei. E questo che vi dicevo un attimo fa, crollano i freni inibitori, soprattutto se hai la possibilità, poi insomma, come è stato per i cinesi, nei tuffi, eccetera, di festeggiare, celebrare un risultato sportivo molto positivo. Insomma, vai fuori di testa, vive, si vive, ecco, bravo, si vive per 16 giorni in una bolla, come in una bolla, no? Siamo tutti fuori di testa, io per primo, anche Genta, che non sa che domani 16 agosto i giornali non escono in Italia, qui oggi. Ma è perché io lavoro tutti sono i giorni. 120 anni, sono 120 anni che i quotidiani sì, lo so, ma per me noi pensiamo che tu scrivi anche per altri, magari. Sì, ma no, ma voglio dire, gente, ma capito, perché si è duramente allenato per il campionato del mondo di nascondino, infatti per 3 giorni non l'abbiamo trovato e l'Italia vinceva ovunque, tutti mi dicevano: ma dov'è Genta? Mettimi in diretta con Genzio, non lo so dove è andato, si sta allenando per i mondiali di nascondino. Sì, una roba, voglio andare a Tokyo a fare nascondino. Il tiratore diceva: come mai non c'è Genta in diretta? Io non lo so, Campriani ieri ha detto: guarda, sei in spiaggia, sta facendo le sabbiature, non lo so, è là con Bobo Vieri, insomma, va bene, va bene. No, no, io vado, tornato, sono contento. Vado a, vado a Tokyo a fare le Olimpiadi di nascondino. Tra un po' non mi troverete più perché sarò già a Tokyo. Ciao Leo Turini, ci sentiamo domani. Ciao maestro. Ci sei domani? Ma io ci sono sempre, mica come te, mica come te che oggi non fai niente. Dai, oggi non scrivi. Ciao Leo, ciao. Ciao. Traffico. Londra a questo punto io penso che doveva andare così, perché sennò non ci arrivavo qua. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva. A lui bisognava tirargli la bomba. Bam, bam, bam. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Guarda chi si vede, Shinkai. Shinkai, sì. È strano che sia lì. Sì, appunto. No, chiede di sposarlo. Oh, proposta di matrimonio a Dezi. Che bello. Fantastico. No. E penso che sia la prima volta che vedo piangere una cinese. Ma dai. No, che bello. Beh, questo come emozione vale fantastico. La medaglia d'Italia. Fantastico. Un ginocchio. No. Bello. Fantastico. Non ho parole. Ecco perché Shinkai non era concentratissimo nella gara di singolo, che ha fatto disastri. Pensava ad altro, a cose più importanti. Ti sposerò, ti sposerò. Giovanni, che buono, che meraviglia. Adesso che non c'è più quel cuore di pietra di Torrino, possiamo celebrare questa meraviglia. Io sono ancora emozionato da ieri, ma soprattutto sono sollevato, perché per chi l'ha vista in diretta, la scenetta è durata quasi un minuto. E chi di noi è un uomo e non nei panni della donna, ha tremato a un certo punto pensando che la questione potesse tramutarsi in un epic file di dimensioni planetarie. Io saluto e questa non rispondeva, non dava segni di vita. Sì, lo guardava. Sì, guardava. Che sta a fa? Io saluto e ringrazio Enzo Miccio, notissimo. Buon pomeriggio, ciao. Ragazzi. Che meraviglia, dichiarazione, cioè richiesta di matrimonio sul podio olimpico. Sì, ma come diceva il nostro amico, anch'io ho tremato perché lei non dava segni di vita. Vabbè, no, mettiti nei suoi panni, diciamo, che sta facendo questo qua, ma è scemo. No. Esatto. O no, non dice così, non pensa così. L'ha pensato, lei l'ha pensato al 100%, ve lo dico, perché è vero che i cinesi non sono inclini a manifestare i loro sentimenti in piazza, è considerato il mondo visione, deve essere lui molto, lui è stato veramente molto coraggioso e mi è piaciuto, lui aveva questo occhietto ingenuo, senza sapere cosa rischiava. Con il suo cadeau in questa cloche dal design cinese, sotto poi c'era, non so se il carato della pietruzza, non l'ho visto, però era tenerissimo. Lei però un po', come dire, imbambolata, non so se perché aveva vinto la medaglia o perché non sapeva cosa rispondere, però secondo me fuori dalle telecamere nel camerino lei gliene ha contate talmente tante, sì, non era, anche secondo me. Non era felice per niente quella donna. No, ma non è, attenzione, perché non è la prima volta che vediamo delle dichiarazioni d'amore in salsa sportiva. Perché ci sono due precedenti, no, Giovanni? Sì, uno è quello di Ruffini, due, sì. È quello di Simone Ruffini, oro ai mondiali di Kazan nella 25 km in acque libere di nuoto, che ha chiesto alla fidanzata Aurora Ponsele, anche la nuotatrice, di sposarlo con un biglietto sul podio. Cioè è salito sul podio e ha tirato fuori un cartoncino. Aurora sposami. Aurora sposami. Sì. Scritto a mano, su un foglietto. Peccato che dopo pochi mesi i due si siano lasciati. Sentiamo. Non vediamo cosa c'è scritto però sul foglio che ha Simone Ruffini. Fermo lì Simone. Aurora, mi vuoi sposare? Ma pensate, addirittura esplode la nazionale italiana sulle tribune. Proposta di matrimonio di Simone Ruffini dal podio di Kazan per Aurora Ponsele. Non ci credo. Non è andata benissimo questa. No, questa è finita 2. Questa è finita 2. 1x2 è finita 2 questa. Ce n'è un'altra però che ci ricordiamo tutti. In TV a Sky c'era Leonardo, che era allora allenatore, no? o presidente del Paris Saint Germain. Lui era dirigente del Paris Saint Germain. Era massimo dirigente del Paris Saint Germain. In studio c'era Anna Billot, sua compagna, fidanzata, eccetera, giornalista di Sky. E c'erano i sorteggi della Champions League. E all'improvviso, ascolta Enzo, se non l'hai vista. Le più cattive aspettano. Ma Anna non mi fa domande? No, io evito. Non lo so. Allora ti faccio una io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Hai capito? Questa è andata bene. No, ma per carità. Ma per carità. Poi gli aveva anche detto Enzo: ma dai, lascia stare, se ne parliamo a casa. Che cosa fai in diretta televisiva? Bisogna dare un decalogo, dai. Si fanno o no queste improvvisazioni? No. Allora, è un'arma a doppio taglio, veramente molto affilata. Bisogna essere super sicuri e bisogna aver già parlato di matrimonio. Bisogna avere la certezza che lei dica di sì, perché altrimenti non faccio tutta questa cosa. Per quanto poi uno possa sempre amare il rischio e possa anche rischiare. Io sono per le cose meno plateali. Ho visto di tutto, dai flash mob in Piazza del Duomo piuttosto che cose lanciate da paracaduti, da mongolfiere. Però io sono un po' romantico in questo, perché se devo incassare meglio che sono da solo, perché se questa mi dice di no, meglio una spiaggetta isolata con un bel tramonto e una cenetta romantica che non il mondo visione. Ma no, ma poi hai ragione tu, Enzo, cioè il destinatario della proposta può anche legittimamente risentirsi, no? Viene messo in imbarazzo in questa maniera, qui può anche legittimamente dire che stai a fare? Ascolta, ma magari questa cinesina qua, molto carina, simile a un ghiacciolo per quanto riguarda entusiasmo e poteva anche volerlo sposare, magari ce lo sposa pure, ma non può dire: guarda che non è il momento, avevo pensato di farlo tra 3 anni piuttosto che rimandiamolo al prossimo Natale. Quindi devi essere. No, ma sarebbe stato veramente meraviglioso se si fa, al di là del cinese che avrebbe reso incomprensibile qualsiasi cosa. Però sei un po' bastardo. No, io ho tremato. Non è vero, io ho tremato. Io so che la parte femminile di questa redazione non ha colto questa cosa e si è lanciata nella questione romantica. La parte maschile ha sudato freddo, giuro, per una ventina di secondi. Ti posso dire che negli spogliatoi quei due hanno litigato, ve lo dico. Sì, va bene. Sei certo? Ma è abbastanza, voglio dire, lei aveva lei l'ha bastonata, lei l'ha bastonata alla grande, lui tutto carino così e lei fredda, ragazzi, lei non ha, ma che quella è una lacrima di convenzione, ma che voglio dire, se uno veramente vuole sposare questa diventa pazza, lo abbraccia, lo bacia, poi a un certo punto, voi avete visto bene il filmato, era... Lei si è allontanata e l'ha lasciato lì come un pirla da solo. Cioè, lei è andata. Allora dire: ma avvio, tu se vuoi vieni, ci vediamo in camerino. Cominciano bene, eh? Ha detto: ci vediamo fuori, ti aspetto fuori. Esatto, era questa l'interpretazione. Quindi diciamo, cari italiani, e non solo, fatelo con in una situazione un po' più intima, o a meno che non abbiate già parlato di proposta, quindi lei solo aspetta l'anello, oppure ve l'ha già chiesto un sacco di volte, è stata lei a farvi capire che vuole essere inanellata. In quella maniera sottile in cui lo fanno, no? Cioè che tu non capisci. Ormai non c'è più quella maniera sottile. Ma magari in Cina non funziona così. Ah, non lo so, informare sul mercato cinese, mi devo informare, è vero. Preparato. Grazie Enzo, è stato un piacere. Ragazzi, buon Ferragosto. Che divertimento, grazie Enzo Micio, grazie davvero. Ci fu anche, cavolo, questa non la sai, una proposta del calciatore Panarelli che chiese a Laura Torrisi di sposarlo in diretta e lei gli disse no. Lo scrive Alessio da Pescara via. No, ma c'è anche uno spadista italiano. Avvenne durante il Grande Fratello. Pizzo. C'è anche uno spadista italiano, sì. Pizzo, che lo ha fatto qualche mese fa con un'altra atleta del pentathlon, adesso mi sfugge il nome, e lì pare sia andata bene. Uno. L'accendiamo. Uno. Va bene, ragazzi, adesso ci fermiamo per il GR e poi torniamo a proposito di spadisti. Mi sa che poi ne parliamo. Sì, parliamo poi ne parliamo. Ci sono un po' di amici da casa che scrivono che ce l'hanno ancora con la Pellegrini, fanno il confronto con Tania Cagnotto. Ma basta. Io francamente è una cosa che non riesco a capire. Come non riesco a capire, anche se non mi sfugge che non tutte le medaglie sono uguali, perché non tutte le discipline hanno la stessa tradizione, la stessa storia, lo stesso tasso di competitività, io non riesco a capire il discorso secondo cui noi stiamo andando bene, 22 medaglie, ma l'80% sono medaglie che non contano nulla. Ma perché? È una cosa che io francamente non riesco a capire. Aggiungo per un'altra carità, cosa. La medaglia dei 100 metri pesa più di un'altra medaglia. Ma non riesco a capire perché si debba, anche in un momento di orgoglio, di gioia, di festa, riuscire fra di noi a discutere di queste cose qui. No, ma poi, messaggio. Siete malati di sport, curatevi voi giornalisti, ma noi ascoltatori no. Infatti nessuno di noi ha mandato della Divina alla Pellegrini, solo voi. Federica Pellegrini è un'immensa nuotatrice, probabilmente la più grande della storia dello sport italiano. Ti leggo questo messaggio appena arrivato di Valeria. L'idea che esistano differenze culturali e che in alcuni popoli non si è culturalmente abituati a sbracciare come gli italiani, forse non vi passa neanche per l'anticamera del cervello. No, io credo che quella lì ci ha pensato su qualche secondo di troppo. Sono d'accordo con te, Giovanni. No, ma dicevo sulla Pellegrini, poi continuiamo questo discorso. Secondo me è un grande risultato sportivo, come si diceva prima con Leo Turini, anche una medaglia di legno, anche questo quarto posto della Pellegrini alla quarta finale olimpica consecutiva. Ne parliamo più tardi. Sì. Vuoi sposarmi? Sì. Boato del pubblico. Questa entra nella storia. Tutti convocati. Andiamo a vincere ancora! Sabato mondo! Attenzione, attenzione, fermi tutti. Uscite immediatamente dall'acqua. Mollate tutto. Pinne, braccioli, salvagenti. Accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo. Aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto. E noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Convocati alle Olimpiadi. Aubry comincia a festeggiare e ha vinto comunque anche l'oro sulla pedana. Aubry non solo da CT. Ecco il doppio. Eccola qui la 45esima stoccata. Dunque la Francia medaglia d'oro nella spada maschile a squadre. L'Italia medaglia d'argento. Ed eccoci per la seconda oro olimpica insieme con il sottoscritto Giovanni Capuano. Guarda, con voi, io dissento profondamente da quello che ha scritto Marco da Trento. 800 24 0024, se ci chiamate, oppure 349 238 6666, sms e whatsapp. Ha scritto: noi italiani ce la cantiamo e ce la suoniamo. Però a parte Paltrinieri vinciamo solo medaglie di nicchia in discipline per pochi eletti. Che dire ad esempio dell'argento a squadre degli spadisti in una competizione partita con i quarti di finale? Comunque godiamocele e illudiamoci di essere un popolo di atleti fenomenali, ma è appunto un'illusione. Allora lui è per tutti. No, non sono d'accordo nemmeno io. Cioè, se dobbiamo metterci a piangerci addosso perché vinciamo le medaglie nella scherma, allora secondo me non ci siamo più. Non sono discipline di nicchia, sono discipline che hanno milioni di partecipanti in tutto il mondo e stiamo parlando dell'elite assoluta, cioè del livello top mondiale.

Quindi io da atleta dico che ci vuole il massimo rispetto dei grandi campioni, che poi i non addetti ai lavori la critichino in quel modo. Molto secondo me dipende anche dai giornalisti e da quello che montano poi dietro, perché anche io molte volte magari dici una frase, poi leggi il giornale, ne leggi un'altra, dici ma io non l'ho detto così, perché hanno scritto così? Però non è sempre colpa dei giornalisti, no, su. Però secondo me, povera, cioè lei comunque è da quando ha 16 anni che è al top, no? Sì, lei è sotto i riflettori, è super forte. Ma poi c'è tanta invidia in giro. Quella ti giro questo messaggio, non è la tua specialità, però magari legato anche alla tua. Cioè, chiede Massimo da Torino: perché nella carabina usano tutti un abbigliamento molto pesante, speciale? A cosa serve? E ad esempio mi viene in mente che nella carabina sparano e hanno su questa armatura, voi invece siete molto più leggeri eppure sparate lo stesso. Però la differenza della carabina è che comunque loro stanno fermi, loro stanno fermi immobili, hanno il fucile in spalla e sparano a fermo. Il nostro, bene o male, spariamo però in movimento. Per quanto riguarda lo skit, si spara col fucile sul fianco e si deve fare la rotazione per andare sul piattello. La fossa partono già col fucile imbracciato, però comunque il fucile viene mosso a destra e a sinistra, mentre loro devono stare proprio. Quindi ci manca immobili. Mettervi sul cappottone quello bello pesante. Esatto, sì. Senti, ma è vero che siamo il popolo che ha la mira migliore? Il numero delle medaglie dice questo, sì. Però... quest'anno abbiamo, come nel medagliere, siamo al primo posto. Sembra di sì. Posso dire che siamo, almeno noi del tiro a volo, un gruppo di ragazzi che lavorano, che ci credono, che hanno fatto tutto il possibile per poter preparare le Olimpiadi al meglio. La federazione ci ha dato gli impianti che avremo trovato... a Rio ci siamo allenati con quelle macchine, con quei piattelli, i gruppi sportivi hanno fatto la loro parte, anche loro fornendoci altro materiale, quindi non abbiamo lasciato nulla al caso, come credo anche il tiro a segno, che comunque li ha messi tutti in finale e ha fatto due medaglie. Grazie Chiara, grazie, grazie a voi, grazie della tua partecipazione e grazie della medaglia a nome di tutti. 800 24 00 io non 24, credo che il problema sia che in Brasile siamo in inverno, per cui si vestono tanto i tiratori. No. Ce lo scrivono Sergio da Fermo. No, ma sempre così sono. Sergio da Fermo. Ciao, buonasera. Ciao. A proposito di tiratori, io mi domando che c'entra alle Olimpiadi il tiro a piattello, la carabina, le pistole. Che sport sarebbe? È una cosa meccanica. Sono sport di precisione. Te l'ha spiegato Chiara Kainero prima, se abbiamo cercato di spiegarlo, perché l'impatto è quello, lo capiamo, perché poi dopo tanti la pensano così, ma secondo me lo sport non è solo il fisico, è anche la testa. Sì, però allora mettiamoci pure le moto, che c'entra? Perché le moto non è uguale, è una cosa meccanica, però con l'abilità del guidatore. Ma io, non perché sono contrario alle armi, perché le armi ci vogliono quando servono, però alle Olimpiadi queste cose, questa cosa qui ci stona. Ma allora è meglio il tiro da fune, cioè, secondo me nessuno mi toglie dalla testa che è stato il business, cioè l'industria delle armi, cioè, a farlo entrare, io non mi ricordo quanto è successo. È uno sport storicamente presente. È uno sport storicamente presente. Sia che invernali, non credo sia la lobby io delle non lo armi. Vedo, io non lo vedo ma vicino al judo, vicino al nuoto, vicino alla corsa, vicino al tennis. Cioè, la carabina mi sembra una stonatura grossa. Boh, la pistola, cioè, non è una questione, non è uno sport, è un hobby che ci hanno le persone. Ma allora anche la moto perché? Può piacere oppure no, insomma, la moto non c'entra nulla. Noi dobbiamo ricordarci che le Olimpiadi affondano le radici in una tradizione storica antica in cui erano sostanzialmente una sorta di sostituzione delle guerre. E dentro c'era anche la scherma, c'erano anche delle arti marziali, e questo noi ereditiamo, e quindi questo è. E poi Chiara Kainero mi sembra abbia spiegato bene dello sforzo fisico e mentale che si fa anche per fare il tiro. È questo, cioè le Olimpiadi, gli sport non sono solo l'atletica e il nuoto. Grazie comunque Sergio. Aspetta. Magari sono anche altre cose in futuro. Ma cosa? Che gli sport. Aspetta, ti faccio sentire una cosa. Uno, due, questo è Renato Pozzetto, fin da grande. Allora, siccome da due settimane discutiamo di quali sport volete portare alle Olimpiadi e so che tu, Carlo, sei scettico, ho convocato Giorgio Moratti, che saluto. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Organizzatore del campionato mondiale di nascondino, perché il nascondino... Sì, esatto. Deve entrare a far parte degli sport olimpici. Ma no, secondo me no, Giorgio, con tutto, Giorgio, con tutto l'affetto e rispetto, convincimi che è uno sport che deve andare alle Olimpiadi. Cioè, poi può essere divertentissimo, può essere un meraviglioso basatempo, ma non c'è bisogno di andare alle Olimpiadi. Spiegami perché è uno sport. Guarda, te lo spiego quando verrai a Consonno il 3-4 settembre a vedere a nascondino. Che il nascondino a squadre, come lo giochiamo noi, come lo presentiamo noi, è un vero e proprio sport che richiede abilità atletica e strategia e anche gioco di squadra. Mm, ma come funziona? Cioè, come quando facevamo da bambini? Come funziona? Nascondino è semplice. Sì, no, ma uno conta e gli altri si nascondono. Ma si gioca così, come quando eravamo bambini? O ci sono regole particolari? Noi lo presentiamo come gioco di squadra. Quindi ci saranno 64 squadre composte da 5 giocatori ciascuna. E ci saranno diverse manche e per ogni manche gioca solo un giocatore della squadra. La squadra di cercatori è fissa ed è composta dalla squadra di football americano di Bergamo, che si chiamano Lions. Mm. E i punteggi ottenuti dai giocatori, che avranno un tempo delimitato per uscire allo scoperto e tenersi, vanno a sommarsi a quelli dei compagni di squadra, in modo che poi risultano le 20 finaliste e la squadra vincitrice del premio finale, che è la foglia di fico d'oro. La foglia di fico d'oro. Quindi, ma volete andare alle Olimpiadi? Esatto. Ma c'è stata questa occasione. Noi non ambivamo ad andare alle Olimpiadi, non ambivamo a tanto, e tuttora la cosa ci diverte molto. C'è stato questo interessamento nel 2014 da parte della Commissione Olimpica Aperta Occhio 2020, nella persona di Yasuo Ozaki, che ha voluto sapere di più riguardo alla nostra competizione per poterla inserire fra i giochi dimostrativi di Tokyo 2020. Hai capito? A foglia di fico d'oro. Ma siamo forti o no? Perché poi è l'unica cosa che ci interessa. Cioè, ci porta medaglie e allora magari ci possiamo pensare... Oppure dobbiamo vedere vincere come gli un altri ghiacciolo, e quindi... cioè, siamo forti, ma non ce ne frega niente di tutto il resto. Siamo forti o no? Ma l'italiano è sicuramente fortissimo. Nascondino. Ci saranno un sacco di esempi di italiani bravissimi a nascondersi quando serve e uscire allo scoperto invece quando no. Siamo dei fuoriclasse. Credo proprio di sì. Quando c'è di mezzo la strategia e la furbizia, penso che siamo fra i migliori al mondo. E poi il campionato mondiale di nascondino è nato in Italia, quindi quale nazione migliore per portare avanti il nascondino? Quindi hai capito? Facciamolo perché magari ci porta la medaglia d'oro. Grazie Giorgio! Grazie a voi, aspetto e aspetto tutto il pubblico il 3-4 settembre nell'ex paese dei Balocchi, con Sonno, vicino a Lecco. Grandissimo. Va bene. Io che buono veniamo. Facciamo. A presto. Grazie. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao. Sono tre cose per me, mi sa che sono sabato e domenica. Sì, che abbiamo da fare. Inizia il campionato. Ah, a proposito, domenica lo diciamo già agli ascoltatori, perché maratona non di due ore ma di tre maratona ore. Maratona a tutti convocati. A tutti convocati, dalle 17, dalle 17 alle 20. 20. Perché dovremo incrociare un po' tutto, perché sabato ricomincia anche la stagione del calcio, domenica ci saranno poi quasi tutte le partite in serale, ma ci sarà anche l'ultima giornata delle Olimpiadi. Magari ci sarà anche la bella sorpresa di una finale dell'Italia del volley, chi lo sa, proprio in quell'orario lì, dalle 17 alle 20. E allora noi mettiamo tutto insieme. Avremo Leo Turrini, avremo Pierluigi Pardo, avremo Dario Ricci, avremo tre ore di tempo, cominciamo a dirvelo, dalle 17 alle 20, così vi preparate, abbassate il volume della televisione e state con noi. Dai, ma tutto pomeriggio. Gli ascoltatori sono perfidissimi, anche quelli che scrivono i messaggi 349-238-6666, qualche WhatsApp, mettete nella nazionale di nascondino 10 impiegati pubblici a caso e siamo oro olimpico per 100 anni. Ma pensa te che perversione. Voi sopravvalutate i politici degli altri paesi, però potrebbe essere per selezioni di politici, vero Vincenzo Martucci? Ciao Vincenzo. Fantastico, nascondino. Questa me la gioco subito. Sì, eh? Ah, nascondino, stavamo parlando di nascondino alle Olimpiadi, ho detto, ma convincetemi che è uno sport. Fantastico, fantastico. Senti, cosa diciamo? Cosa diciamo del signor Andy Murray? Ma diciamo intanto che è stato un torneo meraviglioso e che è cominciato col botto, con l'eliminazione di Djokovic e le lacrime di Djokovic, è continuato con quella partita meravigliosa ancora di Del Potro contro Nadal con l'abbraccio a rete, ed è finita appunto con il fuoco d'artificio questa finale di 4 ore, 4 set, ancora con l'abbraccio a rete, con Del Potro stremato, ma lo stesso Murray stremato, sembrava di essere tornato a quella finale dell'Australian Open con appunto Nadal e Djokovic morti, che non riuscirono neanche a ascoltare l'inno perché erano morti, insomma, e si dovevano sedere. Bellissimo, bellissimo, è una partita, che è un torneo che ridà un grande fiato al tennis olimpico. Che bello, che bello, che bello. E tra l'altro poi a fine femminile c'è questa storia meravigliosa della Puig, che uno dice 34 del mondo, sì, però ha battuto Muguruza, ha battuto Kvitova, ha battuto Kerber, quindi insomma ha fatto una grande impresa. La stranezza del torneo olimpico. No, ma è la cosa bella, questo torneo olimpico ha una vincitrice donna che è la numero 34 del mondo, che credo che in uno slam o in uno dei tornei principali difficilmente potrebbe vincere. Ha la storia di Del Potro, 141 esatto. Al mondo, per tutte le cose che conosciamo, gli infortuni, le difficoltà, che è arrivato lì sino alla finale. Eppure nessuno si sogna di dire che sono stati due tornei deludenti. Perché, perché sono stati due tornei emozionanti, anche il nostro Fognini ci ha emozionato, noi poi insomma l'abbiamo raccontata quella partita fatta in maniera un po' bipolare, tanto per cambiare da Fabio, però guarda che però obiettivamente Fabio, cioè il campione, e il campione poi viene fuori quando il gioco si fa duro, cioè il nostro è un campione di intermittenza straordinario, capace di non far giocare l'avversario e addirittura di non far giocare il numero due del mondo, che ha le sue stesse caratteristiche, quindi ha fatto un'impresa veramente straordinaria Fabio, perché ovviamente lui si trova meglio contro altri avversari, o con un Del Potro forse secondo me si può trovare ancora meglio, perché con la sua varietà può creargli dei problemi. Quando gioca con uno simile a lui come Murray, gli dà 3-0 al terzo set, poi lì cala un po' di concentrazione, si nervosisce per una chiamata negativa eccetera, è comprensibile. Io sono sicuro che Fognini prima o poi, così come ha già fatto nei tornei diciamo normali 500, ci piazzerà un risultato straordinario anche negli slam, nei grandi tornei, lo so, lo sento. Se smette di essere un po' come le lucine di Natale, intermittente, si accende. Beh, solo lui può fare 1-6, poi 6-2, sì, esatto, poi 3-0, poi 3-6. Sì, tu ne hai visti tanti, dimmene un altro. No, ma Canè, Paolino Canè magari. Sì, ma guarda che noi di giocatori così ne abbiamo avuti diversi. Guarda che abbiamo io un giorno dovrò scrivere un libro sui talenti mancati del nostro tennis. Guarda che se cominciamo a parlarne, gente che a voi non vi dice niente come nome, ma che poi dove è anche la gente normale, insomma, gli appassionati sanno. Gente sulla quale avremmo scommesso, l'ultimo Quinzi, cioè un giocatore mancino che ti vince il titolo junior a Wimbledon e poi sparisce, e quando lo vedi servire dici, ma davvero questo è mancino, non ha nemmeno le caratteristiche del mancinismo, e voglio dire è una questione. E poi dopo invece in questo mondo dello sport italiano ti capita un Campriani che ha una gestione delle emozioni che è sovrumana, ecco, quindi dai, siamo fatti così, siamo belli perché siamo vari. Sì, molto molto vari. Vincenzo, il signore delle Olimpiadi, Bolt o Phelps? Ma non c'è paragone, in questi giorni sto facendo delle presenze su Sky, sì, t'ho visto, non c'è nessun paragone, cioè Bolt è veramente il lampo. Io quando ero a Londra a vedere le Olimpiadi c'è stato un silenzio totale, c'è stato lo stesso silenzio anche ieri. Non c'è paragone, non c'è paragone, perché due sport diversi, l'atletica è gigantesca, il nuoto con tutto il rispetto non è a quella. L'atletica è la regina degli sport e i 100 piani sono la regina della regina. E Bolt è unico e secondo me ha anche una grande responsabilità. Phelps potrà sparire come personaggio, Bolt dovrà diventare un grandissimo ambasciatore del mondo perché ha la capacità di farsi ascoltare. C'è un'altra caratteristica importante, Bolt è il re dei neri, senza offesa per questa parola, e non lo è Gatlin. Gatlin è quasi un bianco, e mi ricorda un po' la situazione di Ali, che è ex Cassius Clay, cioè sì, sì. È quello che davvero si fa ascoltare, è quello che fa silenzio e il pubblico zittisce, è quello che un'ora prima del via sono tutti lì con la bocca aperta. Io credo che Bolt vada oltre tutto. Si chiama carisma, no? Diventerà sì, un politico, sì. Magari, parte, ma in senso buono. Fatto, a parte il fatto di come corre, cioè, ma chi mai si può permettere nei centropiani di partire dietro tutti e poi a 5 metri dalla fine di battersi il petto e aver già finto? Però, cioè, però Vincenzo, uno che da solo è il 38esimo stato del medagliere all time delle Olimpiadi. Tolto il discorso sul carisma, e hai perfettamente ragione, hai profondamente ragione in quello che hai detto, è qualcuno che forse non rivedremo più. Sì, ma poi Phelps, che musica vi fa venire in mente a voi? Se pensate a Bolt vi viene subito in mente il reggae, ma il reggae è quello bello, non quello insomma dei fumati, dei cercatori di sesso della Giamaica, ecco, no, il reggae è quello bello, quello che ti scatena, quello che non ti fa star fermo, quello che ti entra nelle vene. Lui è così, avete visto la presentazione della sua presentazione stampa, si è messo a ballare con le bandierine, e cioè è qualcosa di diverso, di unico, non ce lo dimenticheremo mai più. Però ripeto, ha questa responsabilità adesso di diventare un grande personaggio anche fuori dalla pista. Grazie Vincenzo. Grazie. Ci vediamo, ti vediamo in questi giorni. Grazie a Vincenzo Martucci. Giovanni, abbiamo ce la facciamo, dai. Un minutino. Franco, buonasera. Oh, buonasera. Sentite, io intervengo per il fatto di alcuni che hanno scritto, hanno telefonato dicendo che l'Italia prende poche medaglie, una cosa e l'altra, no? Almeno all'inizio si diceva così. Ma io non so se si rendono conto che praticamente ci sono delle nazioni tipo la Cina, tipo gli Stati Uniti, tipo la Russia, che non sono nazioni, sono continenti praticamente, hanno un vivaio, hanno milioni e milioni di abitanti, per cui hanno un vivaio enorme, perciò bacino di utenza, sì. Paragoniamoci con nazioni come le nostre, tipo Spagna, tipo, che posso dire, già la Francia c'ha più di noi, ma insomma Germania, ma è inutile che andiamo a dire i cinesi, ma i cinesi sono un miliardo. Guarda, vuoi farlo questo paragone? Prendendo il medagliere in questo momento, abbiamo davanti la Gran Bretagna, perché Stati Uniti e Cina e Russia li togliamo, e abbiamo davanti la Gran Bretagna e la Germania, siamo alla pari più o meno con la Francia davanti a tutti gli altri, il che non mi sembra affatto male, il che non nel medagliere dei male. Normali nel medagliere dei normali, esatto. Io ringrazio Franco. Giovanni Capuano, ringrazio anche te, adesso mi lasci da solo. Noi ci vediamo domenica, ci vediamo domenica 17:20. Ci vediamo domenica, noi invece ci sentiamo domani alle 2, dalle 2 alle 3 per tutti i convocati e dalle 6 alle 8 del pomeriggio naturalmente per tutti i convocati alle Olimpiadi. Io ringrazio Leonardo Siligato, Lorenzo Rotella in redazione, Claudia Schiattone, il nostro autore, Andrea Roccabelli in regia. Ciao a tutti. Tutti convocati. Ci vediamo domani. Enjoy!